Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata speciale del cacciatore di libri perché è dedicata al Campiello, uno dei premi letterari più prestigiosi, che verrà assegnato stasera fra circa un'ora qui a Venezia. Edizione numero 50 per il riconoscimento alla narrativa che era stato creato dagli industriali veneti. I 5 finalisti che si aggiudicano comunque il premio Selezione Campiello sono stati scelti a fine maggio dalla giuria dei letterati, una decina di esponenti del mondo della cultura guidati quest'anno dal filosofo Massimo Cacciari. Ora la parola passa alla giuria popolare. A decidere il vincitore finale saranno 300 persone di varie parti d'Italia e di varie professioni, dalla casalinga all'imprenditore, dall'insegnante all'impiegato. I nomi dei giurati popolari sono segreti e vengono svelati solo dopo la proclamazione del vincitore, in modo da evitare pressioni. Ed è per questo che il Campiello è un premio decisamente imprevedibile. Resta storica, per esempio, l'edizione del 2007, nella quale il favoritissimo Carlo Fruttero arrivò per ultimo. Quindi, insomma, suspense anche per noi giornalisti fino alla fine. Ma vediamo subito chi sono i 5 finalisti di quest'anno. Carmine Abate con La collina del vento, Mondadori. Marcello Fois con Nel tempo di mezzo e Inaudi. Francesca Melandri con Più alto del mare, Rizzoli. Marco Missiroli con Il senso dell'elefante, Guanda. Giovanni Montanaro con Tutti i colori del mondo, Feltrinelli. Quest'anno devo dire che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché personalmente mi sono piaciuti praticamente tutti i 5 libri, ognuno ovviamente per una ragione diversa. Partiamo con Carmine Abate, il suo romanzo La collina del vento, pubblicato da Mondadori. È un romanzo che ho trovato molto emozionante, ho avuto tra l'altro la fortuna di leggerlo proprio nei luoghi dove è ambientato. Si tratta di una saga familiare, ambientata in Calabria, precisamente in un paesino di fantasia vicino a Puntalice, sulla costa ionica, in provincia di Crotone. È la storia della famiglia Arcuri, che è particolarmente legata alla sua terra, la collina del vento appunto, dove verranno ritrovati alcuni reperti archeologici, i resti dell'antica Crinisa. Una storia che prende spunto dalla realtà e che ci porta in Calabria con i suoi suoni e i suoi colori. Sentiamo l'autore. È nata da un'immagine e da una promessa. L'immagine è quella di una collina dell'Alto Crotonese che si trova tra Ciromarina e il mio paese d'origine, quindi una collina che si affaccia sullo Ionio, che io ho visto, si può dire, da sempre. E però da quando ero ragazzo ne sono stato assolutamente affascinato, perché avvolta da un alone magico quasi, e poi è bellissima come colori, il rosso della sulla, che sono questi fiori di una pianta foraggera. E inoltre, trovandoci nel cuore della Magna Grecia, ho sempre immaginato che dentro questa collina potessero nascondersi dei tesori. Il romanzo fino a 2 anni fa non era mai decollato, non avevo mai avuto nemmeno l'intenzione di scrivere, e lì è subentrata la promessa che ho fatto a mio padre nell'ultimo anno della sua vita, non una promessa verbale, ma l'ho fatta dentro di me, e cioè che avrei raccontato le storie che lui continuava a raccontarmi anche nell'ultimo periodo della sua vita, prima che queste storie, anche le più scomode, anche le più segrete, morissero con lui. Da Carmine Abate ad un'altra saga familiare, quella dello scrittore sardo Marcello Fois, si intitola Nel tempo di mezzo ed è pubblicata da Einaudi. È la storia di un orfano che ormai ventenne decide di scoprire le sue radici e così dal Friuli va in Sardegna. Con una scrittura lirica, potremmo dire, Fois ci racconta il viaggio di questo ragazzo nel secondo dopoguerra in una Sardegna dai paesaggi aspri e meravigliosi. Arrivato a destinazione, sarà accolto dal nonno e dalla zia, gli unici superstiti della sua vera famiglia, e si innamorerà della ragazza più ambita del paese, che è stata già promessa sposa. Come per altri scrittori sardi, per Fois è determinante il senso di appartenenza al territorio. Sentiamolo. Noi viviamo la terra, il territorio, come una specie di alfabeto, per cui capisci, io quelle lettere conosco e parto da quelle lettere sperando che poi tutto ciò diventi un'altra cosa, capito? Il parlare di quello che so mi libera dallo stress di inventare quello che non so, e quindi mi concentra di più su quello che voglio dire. Poi spero che appunto il lettore si astragga, cioè non consideri più la scrittura solo in quanto locale, ma in qualche modo la consideri per quello che ha da dire a tutte le latitudini. Insomma, questo è un po' quello che vorrei succedesse. Francesca Melandri è finalista al Campiello con Più alto del mare, pubblicato da Rizzoli. Era un libro che avevamo già segnalato nel Cacciatore di Libri all'inizio del 2012 come uno dei romanzi che sarebbe stato protagonista di quest'anno. E così, infatti, è stato. È un romanzo toccante perché racconta la storia di un uomo e di una donna che si incontrano mentre vanno al supercarcere dell'Asinara a trovare lei il marito e lui il figlio terrorista. Vengono così analizzati i sentimenti e gli stati d'animo dei parenti dei detenuti. Tutto è ambientato alla fine degli anni 70. Quindi siamo nel pieno del periodo del terrorismo. Ma perché la Melandri ha deciso di raccontare il punto di vista dei parenti dei colpevoli? Sentiamola. Ho fatto una riflessione. Quando c'è un crimine violento, un assassinio, ci sono quattro categorie di persone. C'è la vittima, c'è il colpevole o i colpevoli, e ci sono i parenti delle vittime e poi ci sono i parenti dei colpevoli. Ora, di quegli anni, degli anni del terrorismo, degli anni della violenza politica, si è giustamente parlato molto dal punto di vista dei colpevoli. Le prime narrazioni sono state fatte dal punto di vista di quelli che possiamo chiamare i colpevoli, ovvero i brigatisti, i terroristi, eccetera. Ed era sicuramente doveroso anche per una ricostruzione storica. Poi, altrettanto doverosamente, se non forse addirittura di più, è arrivata la voce delle vittime, dei parenti delle vittime. Ma è clamorosamente, almeno alle mie orecchie, fragorosamente mancata la voce dei parenti dei colpevoli, ovvero di tutte quelle famiglie che sono state assolutamente devastate, non di meno di quelle delle vittime, si può veramente dire, e che hanno subito anche angherie, vessazioni, senza avere assolutamente alcuna colpa personale, individuale, soltanto come colpa collettiva, e noi sappiamo che il nostro sistema giuridico non prevede la colpa collettiva, giustamente. Eppure l'hanno subita, l'hanno pagata. Volevo raccontare loro. E seguendo l'ordine alfabetico dei finalisti troviamo Marco Missiroli con Il senso dell'elefante, pubblicato da Guanda. Missiroli è uno scrittore nato col Campiello. Il suo primo romanzo, Senza coda, vinse il Campiello Opera Prima nel 2006. In questo libro, in parte autobiografico, lo scrittore riminese racconta la storia di un portiere e la vita del condominio. Il portiere è un ex prete e si prende cura di varie persone che abitano nel palazzo, ma è soprattutto incuriosito dall'appartamento di un giovane medico, sposato e con una figlia piccola. Nel corso del romanzo poi si capirà il perché di questa particolare attenzione. Ma perché Missiroli ha deciso di fare di un portinaio il protagonista del suo romanzo? Ecco la sua risposta. Perché prima di trasferirmi, anzi durante il trasferimento da Rimini a Milano, quando sono entrato nella mia prima casa, c'era un portinaio che mi ha detto se gli potevo dare le copie delle chiavi del mio appartamento. E io che abitavo a Rimini e poi a Bologna, dove i portinai non sono così frequenti, mi sono chiesto perché le voleva e lui mi ha spiegato nel caso di emergenza. Allora lì ho capito che se io avessi avuto quelle chiavi, quella copia delle chiavi, probabilmente sarei entrato, non tanto per ruberia, ma per la vita degli altri, per capire come vivevano gli oggetti, per quello che fanno, curiosità non solo, anche proprio per empatia. Il mio libro nasce da qui, da quest'idea, dal fatto che a volte uno può avere le chiavi della vita di un'altra persona, può entrare nel suo appartamento e può vivere quella vita, non per pettegolume, ma per aiutare, per proteggere, e questo è il senso dell'elefante. Da Marco Missiroli, classe 1981, al 29enne veneziano Giovanni Montanaro, finalista Campiello con Tutti i colori del mondo, pubblicato da Feltrinelli. Il libro è una lunga lettera scritta da una ragazza, Teresa Senza Sogni, al pittore Van Gogh, che aveva incontrato 20 anni prima in un paesino abitato da molti malati di mente. Un romanzo aspro e tenero allo stesso tempo, con un finale veramente a sorpresa. Io l'ho trovato veramente molto bello. Sentiamo l'autore. Nel finale si scopre perché anche Teresa finisce in manicomio. In manicomio si finiva un più o meno per tutti i motivi. Tra tutti i motivi per cui si finiva in manicomio, quello per cui finisce Teresa per me era il più sorprendente in assoluto, perché ha a che fare non con la decisione di altre persone, non con un nucleo familiare, non con un'educazione, ha a che fare con un corpo, con la natura, con quello che decide di fare la natura. Tra tutti i finali era quello più sconvolgente. È stata una cosa che a me, nel momento stesso in cui ho letto il certificato medico che poi sarebbe diventato di Teresa, ho detto mamma mia, cos'è questo? Cos'è? E lo stesso, il fatto stesso che io per primo abbia cominciato a usare un linguaggio, come dire, di proprio degli oggetti, delle cose rispetto a una persona, mi ha fatto capire che era quello, cioè che nel momento in cui anch'io mi stavo domandando cos'è normale e cosa non è, finalmente avevo trovato esattamente quello che volevo dire, cioè quanto sia sottile e difficile questo confine e quanto tutti noi rischiamo continuamente di emarginare anziché di liberare, di segregare anziché di dare possibilità, di distanziare invece che di includere. Quindi in quel momento ho capito che quello sarebbe stato il personaggio che avrei raccontato. E allora chi fra questi 5 candidati vincerà fra poco il campiello? Lo decideranno con i loro voti 300 della giuria popolare. Per conoscere il vincitore vi do appuntamento al GR delle 22. Per ora vi posso solo dare i vincitori certi, che sono Roberto Andò con Il trono vuoto, Bompiani che si è aggiudicato il campiello per Aprima, e ad Acia Maraini invece è stato consegnato il premio Fondazione Campiello, una sorta di premio alla carriera. Qui da Venezia per il momento è tutto, ci risentiamo appunto nel GR delle 22 per sapere chi ha vinto l'edizione 2012 del premio Campiello. Un saluto da Alessandra Tedesco.